altri suoni. Oggi è lunedì, abbiamo lo Spazio Magazine che viene anticipato da questa rubrica, dalle sonorità tipiche. Sono le 7:48 minuti, è il 17 luglio, giornata d'estate. Sonorità invece che riportano un tema di sospensione, capacità di lettura assolutamente, non dico immediata, ma piacevole, e il progetto Static, che non dico ritorna, ma che approfondiamo dopo averlo trovato in diverse opportunità di remix con i precedenti Pulse Programming. Questa volta siamo con la City Center Office, una label di Berlino che, oltre ad avere questo spazio musicale tra il glitch, l'ambient e l'elettronica, come ho già presentato in altre situazioni, vede l'alternative hip hop e sonorità sempre atipiche presenti per la berlinese City Center Office. Ma è il momento di cominciare con questa breve playlist, è il momento di partire con il primo disco che vede Static protagonista. Glitch, forse meglio dire, da Eject Your Mind, questo lavoro che è di esordio nel 2002 per il difficile nome da pronunciare, come all'anagrafe ha portato invece il più semplice progetto Static. Il micro glitch, la ritmica, l'armonia che diventa giocosa e l'aspetto avvolgente della sospensione ambient è nelle note Static. Abbia voluto in maniera esoterica scrivere il titolo di questo brano al contrario, sto provando anche a leggerlo al contrario, ma non trovo un senso logico, seppur la mia limitata conoscenza della lingua straniera Sim Shat cool è come leggo la definizione, o anzi la scrittura per meglio dire, di questo brano contenuto nell'LP di Static nel 2002, il suo esordio. Il disco è Eject Your Mind, il micro glitch che riempie lo spazio groove, l'armonia che è estesa ed è ambient, e un'altra grande caratteristica, questa un po' più soggettiva, che secondo me il progetto Static ha anche un grande gusto per quanto riguarda la fruibilità. Sono altri suoni, quindi non sempre questo aspetto è dominante. In questo caso lo spazio anche per il piacere dell'ascolto è presente. Questo invece è il suo secondo lavoro, sempre in LP, City Center Office, Talking About Memories. Vi è una regolarità maggiore in queste note, vi è come un senso di crescita nel progetto portato all'ascolto in questo secondo brano di Static. Vi dirò anche il nome prima o poi, solo che cerco di pronunciarlo al meglio. Le collaborazioni sono diverse, ad esempio un grande musicista nel post rock, Ronald Lipok, in questo lavoro. Ok, ci ho provato, ci provo. Anno Leichtmann è il nome all'anagrafe di Static. Ronald Lipok, però, certo, grande artista per il post rock, ci crediamo ciecamente, potete ovviamente rispondere, ma fare anche le ricerche. Io non sono tanto bravo per cercare in rete, mi affido ai dischi andando a vedere i credit sulla copertina. Allora vi posso dire, avendo preparato le playlist anche per domani in altri suoni, per essere più preciso, che Robert Lipok è nei Toroko Korot, che conosceremo domani, e anche nei Tar Water per More Music, che è una label sorella, chiamiamola così, sempre di Berlino, per la City Center Office. Abbiamo citato la More Music e quindi portiamo anche, come spesso accade in queste mini playlist, un brano in collaborazione o lavoro di produzione in remix. Molti di voi conosceranno la Lipuna, che per queste sonorità sono la realtà con l'approccio più pop. Ecco, la voce di Valérie Trabeljar, una delle voci dei La Lipuna, ha portato questo brano con Static Turn On Switch Off, è la conclusione della nostra mini playlist dedicata ai lavori di Static. Conclusione o quasi, perché c'è un altro brano secondo me molto interessante che almeno per un po' vorrei farvi ascoltare. Comunque, Turn On Switch Off Static con il featuring di Valérie Trabeljar, La Lipuna. Sempre della produzione di Hanno Lechtman, è difficile da pronunciare, meglio chiamarlo col nome d'arte Static. Il brano porta la conclusione definitiva, questa volta fine per quanto riguarda altri suoni sui 103.1, torneranno domani coi Toroco con Rot. Questo brano Headphoning, sempre con, e visto che vogliamo parlare dei Toroco con Rot domani, questo è stato scritto assieme a Ronald Lippock. Scusate, ci sentiamo tra poco con i magazine della settimana. Grazie per l'attenzione e tra poco dopo gli spot. Limited to what the person is like. meetings useless. We only take certain keywords out. The packaging isn't so interesting. That's very limited to what a person is like. When we had to be quiet, everything was on headphones. But sometimes we make noise and then the ship took off. Sometimes we make noise and then the ship took off. But sometimes we make noise and then